Sura della notte, capitolo 92 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 21 ayat e discesa dopo la Sura 87 al-A'la. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e il clementissimo, io, Allah, lo giuro sulla notte quando è buia, sul giorno quando è luminoso, sulla potenza che creò il maschio e la femmina. In verità le vostre azioni, o uomini, sono divergenti. A colui che fa beneficenza, teme Allah e crede nella verità bellissima, noi renderemo agevole la via che porta al bene. A colui che è ateo, pieno di sé, e falsa dichiara la verità bellissima, noi renderemo facile la via della rovina. E non gli gioverà la sua ricchezza quando cadrà. A noi appartiene di certo in verità la guida alla salvezza dal fuoco, e in verità a noi appartengono di certo la vita futura e la prima. Per questo io vi metto in guardia da un fuoco che brucia con furore e nelle cui fiamme non arrostisce se non quel molto disgraziato che, girando le spalle, il messaggio dichiarò menzognero. Da esso fuoco invece sarà tenuto lontano quel molto timorato, il quale diede la sua ricchezza in beneficenza per purificarsi, e dal quale mai nessuno ricevette del bene se non per il suo desiderio del volto del suo Signore, l'Altissimo. Certamente a suo tempo egli sarà pienamente soddisfatto.